Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernhard. In verità Wertheimer suonava il pianoforte meglio di tutti gli altri allievi del Mozarteum. È importante che questo sia detto. Ma a Wertheimer questo fatto non è più bastato dopo aver sentito suonare Glenn. Chiunque si sia proposto di diventare celebre e di acquistare una completa padronanza del pianoforte può riuscire a suonare come suonava Wertheimer, purché si dedichi allo studio del pianoforte per i decenni prescritti, pensai. Ma se uno con queste aspirazioni si imbatte in un Glenn Gould e sente suonare un tipo come Glenn Gould, allora, pensai, se è fatto come Wertheimer, anche per lui è finita. Il funerale di Wertheimer è durato meno di mezz'ora. Inizialmente per il suo funerale avevo intenzione di indossare un cosiddetto abito scuro, ma poi decisi invece di recarmi a quel funerale con il mio solito abito da viaggio. A un tratto mi era parso ridicolo seguire le regole sul vestiario in caso di lutto, regole che avevo sempre odiato, come del resto ogni regola relativa al vestiario. E così, quando ho deciso di partire per Coira, sono andato a quel funerale con il mio abito di tutti i giorni. Inizialmente avevo pensato di recarmi a piedi al cimitero di Coira, ma poi, essendomi deciso a salire su un taxi, mi sono fatto lasciare davanti al cancello principale del cimitero. Il telegramma della sorella di Wertheimer, che ora si chiama Duttweiler, me l'ero messo in tasca per precauzione, essendo in esso indicata l'ora esatta del funerale. Avevo pensato a un incidente. Avevo supposto che Wertheimer fosse stato travolto a Coira da un'automobile, poiché non mi risultava che Wertheimer fosse stato colpito da una malattia acuta e mortale. Avevo preso in considerazione ogni sorta di possibili incidenti, ma soprattutto gli incidenti stradali che sono oggi all'ordine del giorno, e neanche mi era passato per la mente che egli avesse potuto commettere un suicidio. Benché questo pensiero, me ne rendo conto soltanto adesso, pensai, fosse il pensiero più ovvio che potessi fare. Ero rimasto meravigliato che la Duttweiler avesse mandato il telegramma al mio indirizzo viennese e non a Madrid, perché non riuscivo a immaginare come la sorella di Wertheimer avesse potuto sapere che io mi trovavo a Vienna e non a Madrid, pensai. E tuttora non mi ha fatto chiaro come la Duttweiler abbia fatto a sapere che io ero raggiungibile a Vienna e non a Madrid, pensai. È probabile che, malgrado tutto, prima del suicidio di suo fratello, lei abbia avuto qualche contatto con lui, pensai. Come ovvio sarei venuto a Coira anche da Madrid, pensai, ma certo sarebbe stato assai più complicato. O magari no, pensai, dato che Coira è facilmente raggiungibile da Zurigo. Di nuovo avevo portato parecchie persone che si dicevano interessate a un eventuale acquisto nella mia casa viennese, una casa che da anni voglio vendere senza essere mai riuscito a trovare un acquirente adatto. Anche quelli che ora si erano fatti vivi non potevo prenderli in seria considerazione. O non vogliono pagare il prezzo che io chiedo, oppure si dileguano per qualche altro motivo. Io in realtà volevo vendere la mia casa viennese così com'era, volevo venderla in blocco, ma allora dovevano capitarmi sotto gli occhi degli acquirenti, e invece non mi è capitato sotto gli occhi, come si suol dire, nemmeno un acquirente. Pensai anche se non fosse insensato separarmi proprio adesso, in tempi così difficili, della mia casa viennese, se non fosse insensato rinunciare ad essa in un'epoca di assoluta incertezza. Oggigiorno la gente non vende a meno che non vi sia costretta, pensai, e in realtà non ero affatto costretto a vendere la mia casa. Ho Dässelbrunn, avevo sempre pensato. La casa di Vienna non mi serve più dal momento che vivo a Madrid, e a Vienna non ci voglio tornare né adesso né mai. Questo avevo sempre pensato. ma poi mi vedevo davanti ad una tutte quelle orribili facce di acquirenti e mi passava la voglia di vendere la mia casa di Vienna. E in ultima analisi pensai, Dessalbrunn col passare del tempo non potrà bastarmi. Tenere un piede a Dessalbrunn e l'altro a Vienna è meglio che restare soltanto con Dessalbrunn. E pensai che in realtà nemmeno a Dessalbrunn ci sarei tornato. Eppure pensai, non venderò neanche Dessalbrunn. Non venderò la casa di Vienna né quella di Dessalbrunn. Rinuncerò alla casa di Vienna, alla quale in verità ho già rinunciato, come del resto rinuncio e ho già rinunciato a quella di Dessalbrunn, ma non venderò né l'una né l'altra, né Vienna né Dessalbrunn, pensai. In fondo non ho bisogno di vendere. A essere sincero, ho ancora qualche riserva che giusto mi permette di non vendere Dessalbrunn e Vienna, che mi permette insomma di non vendere, basta. Se vendo sono un imbecille, pensai. Dunque possiedo ancora sia Vienna sia Dessalbrunn, benché non utilizzi né la casa di Vienna né quella di Dessalbrunn, pensai, ma Vienna e Dessalbrunn le ho ancora alle mie spalle e a causa di questo la mia autonomia è un'autonomia assai maggiore di quella che avrei se non avessi Vienna o Dessalbrunn, oppure Vienna e Dessalbrunn, pensai. Alle 5 del mattino sono di norma fissate le esequie che non devono dare nell'occhio, pensai, e i Duttweiler erano perfettamente d'accordo con l'amministrazione del cimitero di Coira nel non voler pubblicizzare in alcun modo le esequie di Wertheimer. La sorella di Wertheimer disse più volte che nel caso di suo fratello si trattava di esequie provvisorie, perché lei un giorno avrebbe fatto traslare a Vienna la salma di suo fratello per poi tumularla nella tomba della famiglia Wertheimer nel cimitero di Döbling. Al momento però non si poteva provvedere alla traslazione della salma di suo fratello, ma perché non si potesse farlo lei non lo disse, pensai. La cripta della famiglia Wertheimer è una delle più grandi nel cimitero di Döbling, pensai. Con ogni probabilità lo faremo in autunno, aveva detto la sorella di Wertheimer, sposata Duttweiler, pensai. Il signor Duttweiler indossava una marsina, pensai, e accompagnò la sorella di Wertheimer fino alla fossa che era stata scavata nel cimitero di Coira, ma dalla parte opposta rispetto all'entrata, vicinissima dunque al Monte dei Rifiuti. Poiché nessuno aveva detto una parola e la bara di Wertheimer era stata calata nella fossa con enorme velocità da un becchino che aveva dato prova di incredibile destrezza, il funerale non era durato in tutto più di 20 minuti. Un signore vestito di nero, chiaramente un uomo delle pompe funebri, e anzi, pensai, di sicuro il proprietario stesso dell'impresa di pompe funebri, avrebbe voluto dire qualcosa, ma il signor Duttweiler gli aveva tolto la parola ancora prima che potesse incominciare il suo discorso. Quanto a me, non ero stato capace di procurarmi dei fiori e di portarli con me. Non l'ho mai fatto in vita mia di portare dei fiori, ma proprio per questo fu ancor più deprimente il fatto che nemmeno i Duttweiler avessero portato dei fiori con sé. Probabilmente ritengo perché la sorella di Wertheimer era dell'idea che i fiori mal si adattassero al funerale di suo fratello e certo, pensai, la sua idea era giusta, anche se quel funerale completamente senza fiori fece sugli astanti un'impressione atroce. Mentre la fossa era ancora aperta, il signor Duttweiler mise in mano al becchino due banconote gesto che apparve ripugnante ma anche coerente con l'intero svolgimento di quel funerale. La sorella di Wertheimer guardò dentro la fossa, suo marito non lo fece e io neppure. Per uscire dal cimitero seguii i coniugi Duttweiler. Prima di arrivare al cancello, entrambi si voltarono verso di me ed espressero un invito per il pranzo che io declinai. In questo certamente avevo avuto torto, pensai ora nella locanda. Probabilmente da tutti e due, pensai, ma in particolare dalla sorella di Wertheimer, avrei potuto apprendere delle cose importanti e per me vantaggiose, e invece mi congedai e ad un tratto mi trovai da solo. Coira aveva perso ai miei occhi qualsiasi interesse, sicché me ne andai alla stazione e salii sul primo treno diretto a Vienna. È normalissimo se dopo un funerale pensiamo per parecchio tempo e con intensità a colui che è stato sepolto, tanto più se si trattava di un nostro caro, anzi di un nostro intimo amico, di un uomo con il quale siamo stati legati per decenni. È un nostro cosiddetto compagno di studi e in ogni caso un accompagnatore straordinario della nostra vita e della nostra esistenza, essendo egli, per così dire, un testimone primario dei nostri rapporti, pensai. E infatti durante quel viaggio che tra boschi di Bosso varcò la frontiera del Liechtenstein, io non pensai a nient'altro se non a Wertheimer. Che Wertheimer aveva avuto in effetti fin dalla nascita un enorme patrimonio, che mai in vita sua aveva saputo che farsene di questo enorme patrimonio, che sempre in questo enorme patrimonio si era sentito infelice, pensai, che i suoi genitori sono stati incapaci di aprirgli gli occhi, come si suol dire, e che proprio loro lo hanno depresso fin da quando era bambino, pensai. Ho avuto un'infanzia deprimente, diceva sempre Wertheimer. Ho avuto un'adolescenza deprimente, così ancora lui. Gli anni di conservatorio sono stati deprimenti. Ho avuto un padre che mi deprimeva, una madre che mi deprimeva, degli insegnanti deprimenti, un mondo intorno a me che mi ha incessantemente depresso. Che costoro, i suoi genitori e i suoi educatori, hanno costantemente ferito i suoi sentimenti e non meno costantemente trascurato il suo intelletto, pensai. Che egli non ha mai avuto una vita familiare, così pensai sempre in piedi nella locanda, perché i suoi genitori non gli hanno mai dato una vita familiare, non essendo persone capaci di dargli questa vita familiare. Che egli più di chiunque altro parlava in continuazione di famiglia proprio perché i suoi non sono mai stati una famiglia. Che in definitiva non ha mai odiato nessuno più dei suoi genitori, da lui definiti sempre e soltanto come quelli che lo hanno mandato in malora e annientato, che in ultima analisi, dopo la morte dei genitori, i quali erano precipitati con la loro automobile in una scarpata nei pressi di Bressanone, a lui non è rimasto più nessuno al mondo se non sua sorella, dal momento che tutti gli altri, me compreso, li ha lui stesso gravemente insolentiti, mentre di sua sorella si è totalmente impossessato, pensai, senza farsi il minimo scrupolo, che ha sempre preteso tutto e non ha mai dato nulla, pensai, che si è recato moltissime volte sul ponte di Floridsdorf con l'idea di buttarsi di sotto, e però, in effetti, non si è buttato di sotto, che ha studiato musica per diventare un virtuoso del pianoforte, e però non è riuscito a diventare un virtuoso del pianoforte, e che, infine, come lui stesso diceva di continuo, ha cercato rifugio nelle scienze dello spirito senza sapere che cosa fossero queste scienze dello spirito, pensai. Che da un lato ha sopravvalutato le sue possibilità e dall'altro le ha sottovalutate, pensai, che anche a me ha sempre chiesto di più di quanto abbia saputo darmi, pensai, che le pretese da lui avanzate nei miei confronti, come pure nei confronti di altre persone, sono sempre state troppo elevate per poter essere soddisfatte da chi che sia, ciò che necessariamente lo ha sempre reso infelice, pensai. Wertheimer è stato messo al mondo come un uomo infelice e, pur sapendolo, come tutti gli altri uomini infelici, non voleva ammettere di dover essere infelice lui, mentre altri a suo avviso non lo erano. Questo lo deprimeva e gli impediva di uscire dalla sua disperazione. Glenn è un uomo felice, io sono un infelice, diceva spesso Wertheimer. Al che io gli rispondevo che mentre non era lecito dire che Glenn fosse un uomo felice, si poteva dire in effetti che lui, Wertheimer, era un infelice. Cogliamo sempre nel segno, così diceva Wertheimer, pensai, quando diciamo che questo o quello è un infelice, mentre non cogliamo mai nel segno quando diciamo che questo o quell'altro è un uomo felice. Ma dal punto di vista di Wertheimer, Glenn Gould è sempre stato un uomo felice, come del resto anch'io, questo lo so, perché lo stesso Wertheimer, pensai, mi ha detto varie volte con tono di rimprovero che io ero un uomo felice, o quantomeno più felice di lui, che si reputava per la maggior parte del tempo il più infelice di tutti gli uomini. Che Wertheimer, però, aveva fatto di tutto per essere infelice, per essere quell'uomo infelice di cui parlava continuamente, pensai, poiché senza dubbio i suoi genitori avevano provato e riprovato a rendere felice il loro figlio, ma Wertheimer li aveva sempre respinti, così come ha sempre respinto sua sorella ogni volta che lei ha tentato di renderlo felice. Anche Wertheimer, come qualsiasi altro essere umano, non era ininterrottamente infelice. Non era, come lui pensava, sempre e totalmente posseduto dalla propria infelicità. Io stesso rammento che proprio nel periodo del nostro corso con Horowitz, Wertheimer è stato felice, che ha fatto con me e con Glenn più di una passeggiata che lo hanno reso felice ed è inoltre riuscito, come testimoniato dalle mie osservazioni, pensai, a trasformare in una situazione felice anche la sua solitudine a Leopoldskron, ma in effetti tutto ciò è svanito quando ha sentito per la prima volta Glenn Gould che suonava le variazioni Goldberg, alle quali, come so, da quel momento in poi lui, Wertheimer, non ha più osato accostarsi. Già da molto tempo e assai prima di Glenn Gould io stesso avevo provato a suonare le variazioni Goldberg. Di quel pezzo non avevo mai avuto paura, a differenza di Wertheimer, pensai, che ha sempre, per così dire, rinviato le variazioni Goldberg, mentre io, pensai, non ho mai avuto né ho mai patito di una simile mancanza di coraggio nei confronti di un'opera immensa come le variazioni Goldberg. Non mi sono mai stillato il cervello su una simile presunta sfrontatezza. E anzi, di questo non mi sono mai fatto un problema, tant'è che ho semplicemente incominciato a studiare a fondo le variazioni Goldberg e già anni prima del corso di Horowitz mi sono arrischiato a suonarle. Naturalmente a memoria e non peggio di molti interpreti famosi qui da noi, anche se certo non così bene come io stesso mi sarei augurato. Wertheimer è sempre stato un tipo ansioso, del tutto inadatto, già solo per questo grave motivo, a intraprendere la carriera del virtuoso, e più ancora la carriera pianistica, per la quale è indispensabile una radicale impavidità nei confronti di tutto e di tutti, pensai. Il virtuoso di qualsiasi arte, e in particolare il virtuoso di fama mondiale, non può assolutamente permettersi di temere alcunché, pensai. La paura di Wertheimer fu sempre palese. Wertheimer non è mai riuscito a mascherarla ed era inevitabile, pensai, che un giorno i suoi piani crollassero come in effetti sono poi crollati, ma neppure il crollo dei suoi piani artistici fu veramente qualcosa di suo, perché esso avvenne solo in seguito al fatto che io stesso avevo deciso di separarmi per sempre dal mio Steinway e di abbandonare la carriera del virtuoso, pensai. Che egli aveva preso tutto o quasi tutto da me, pensai, anche tante cose che in effetti corrispondevano a me, ma non a lui, molte delle quali erano utili a me, mentre per lui si sarebbero rivelate dannose, pensai. L'emulo mi ha emulato in tutto, anche in quelle cose che chiaramente si sarebbero ritorte contro di lui, pensai. Io, Wertheimer, l'ho sempre soltanto danneggiato, pensai, e per tutta la vita non potrò togliermi dalla mente questo rimprovero che rivolgo a me stesso, pensai. Wertheimer era incapace di reggersi sulle proprie gambe, pensai. Pur essendo in molte cose più fine e sensibile di me, finiva sempre per armarsi, fu questo il suo errore più grande, di sentimenti sbagliati, insomma era un vero soccombente, pensai. Poiché gli è mancato il coraggio di ispirarsi a Glenn in ciò che più gli stava a cuore, si è ispirato a me in tutto e per tutto, inutilmente però, perché da me non poteva prendere nulla che fosse adatto a lui, ma sempre e soltanto cose inadatte, ciò che non volle ammettere benché io glielo facessi notare continuamente, pensai. Se fosse diventato un mercante e dunque l'amministratore dell'impero economico dei suoi genitori, pensai, Wertheimer sarebbe stato felice, e dico felice nel senso che lui stesso dava a questa parola, ma gli è mancato il coraggio anche per questo, il coraggio di decidere quel piccolo dietrofront di cui spesso gli avevo parlato e che lui non ha mai intrapreso. Voleva essere artista. A lui non bastava essere l'artista della propria vita, benché questo concetto racchiuda tutto ciò che può rendere felice qualsiasi persona lungimirante, pensai. Wertheimer, insomma, si era innamorato, addirittura era rimasto ammaliato dal proprio fallimento, pensai, e in questo fallimento si era incaponito fino alla fine. In effetti potrei dire perfino che pur essendo certamente infelice nella sua infelicità, sarebbe stato ancora più infelice se dall'oggi al domani avesse smarrito la sua infelicità, se questa da un momento all'altro gli fosse stata sottratta, il che dimostrerebbe ancora una volta che in fondo Wertheimer non è stato infelice, ma anzi felice, sia pure con la sua infelicità e a causa di essa, pensai. In verità sono molte le persone che proprio perché profondamente immerse nella loro infelicità in fondo sono felici, pensai, e dissi a me stesso che forse Wertheimer è stato davvero felice perché della propria infelicità è stato consapevole in ogni momento e di essa si è potuto rallegrare. Ad un tratto il pensiero che egli avesse paura di perdere la propria infelicità per un qualsiasi motivo a me ignoto e che per questo si fosse recato a Coira e poi a Zizers per togliersi la vita, ad un tratto questa idea non mi parve per niente assurda. Probabilmente dobbiamo supporre che non esistano affatto esseri umani cosiddetti infelici, pensai, dal momento che per lo più siamo noi che rendiamo infelici gli esseri umani sottraendo ad essi la loro infelicità. Wertheimer aveva paura di perdere la propria infelicità e per questo, per nessun altro motivo, si è tolto la vita, pensai. Wertheimer si è sottratto al mondo con un raffinato espediente, mantenendo, per così dire, una promessa alla quale nessuno credeva ormai più, pensai, e si è sottratto proprio a quel mondo che non voleva far altro, in effetti, se non rendere felice lui e con lui milioni di suoi compagni di sventura, ma egli tutto ciò ha saputo evitarlo, usando un'enorme spietatezza contro se stesso e il resto del mondo, perché non meno dei suoi compagni di sventura, più che a ogni altra cosa si era abituato in maniera micidiale alla propria infelicità. Thank you.